GR24, sole 24 ore. Maltempo, neve alle porte della capitale, stato di allerta in tutta Italia. Grecia, sciopero generale di 48 ore. Monti, Obama, patto per la crescita. Economia al palo, produzione ferma. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno dalla redazione, da Cristina Carpinelli. In primo piano, come avete sentito, il maltempo che si abbatte su gran parte del nostro paese. Allora subito in diretta con Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. Innanzitutto, un'ultima ora, un uomo è stato azzannato dai lupi questa mattina in Valmarecchia, a Maiano di Sant'Agato, nell'entroterra viminese. Mentre andava al lavoro, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato in ospedale dai carabinieri. Gli animali scesi in paese erano stremati dalla fame e la discesa a valle dei lupi è una delle conseguenze della neve che si sta abbattendo su tutta Italia, in particolare sul centro-sud, compresa Roma e le zone pianeggianti, anche a livello del mare. Ma vediamo nel dettaglio. A nord, temperature polari e vento forte, in particolare a Trieste, dove domani le scuole rimarranno chiuse, nevica a Venezia e nel Trevigiano. In Toscana le zone più colpite sono su tutto il tratto appenninico, ma anche a Grosseto, con venti che soffiano ad oltre 90 km l'ora. Nevica anche all'Isola d'Elba e al Giglio, traghetti sospesi. Nevica in Emilia Romagna, nelle Marche, dove sono chiuse tre linee ferroviarie. Fiocchi bianchi anche nel Lazio, in particolare a Viterbo e in Ciociaria, dove ci sono parecchie utenze senza né acqua né luce. Situazione critica in Abruzzo, dove dalla notte ha ripreso a nevicare con vere e proprie tormente. Chiuso l'aeroporto. Nevica in Campania con allerta per tutte le prossime 24 ore. Situazione difficile per i comuni ad alta quota in provincia di Avellino e di Caserta, dove manca l'elettricità. Ma non si dice preoccupato il presidente della provincia di Avellino, Cosimo Sibila. Sentiamo la sua voce. Noi siamo sempre preparati perché l'Ispinia è una zona molto vasta e una zona abbastanza montuosa, e quindi da questo punto di vista noi siamo preparati tutto l'anno per il tempo che è l'inverno, insomma, e quindi abbiamo sale in quantità, i nostri spargi sale, anche quando non c'è neve per il ghiaccio escono continuamente, quindi diciamo non abbiamo da fare preparazioni particolari, abbiamo già tutta l'attrezzatura, mezzi, uomini che ci consentono di essere assolutamente preparati. Nevica infine in Calabria, disagi in particolare nelle contrade montane della Sila e nella Sardegna centro-settentrionale, mentre a Cagliari un paziente di un ospedale è morto assiderato. E per ora è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Allora, invece adesso vediamo come sta andando il piano antineve messo in campo dal Comune di Roma. Ci colleghiamo con il nostro Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Cristina. Roma è atteso proprio in queste ore il momento più critico per questa emergenza neve, almeno così ha fatto sapere il sindaco Alemanno. Scuole e uffici pubblici, lo ricordiamo, in città oggi e domani resteranno chiusi. In mattinata la neve ha fatto la sua comparsa alle porte della capitale. Però c'è da dire che in città per ora si è visto soltanto solo qualche fiocco nella zona nord, c'è stato anche un po' di nevischio in altri quartieri, i mezzi spalaneve sono pronti ad intervenire, ad entrare in azione, al momento però, ripetiamo, non sono segnalati particolari problemi. Alemanno comunque ha invitato i romani a muoversi con cautela, sentiamolo. L'appello ai romani è di muoversi con prudenza e soprattutto di portare catene a bordo se ci sono, ogni volta che si usa una macchina. Se comincia a nevicare, queste catene devono essere immediatamente montate sulle ruote. Non bisogna assolutamente tentare l'avventura perché questo può essere molto rischioso. Ecco, ma se al momento la neve non sta creando disagi, è stato invece il freddo probabilmente a causare la morte di una donna senza fissa dimora, una romena di 42 anni. Il suo corpo è stato ritrovato all'Eur in una grotta naturale dove aveva cercato riparo per la notte. Per ora è tutto da Roma. Grazie ad Andrea Viali. Adesso parliamo della Grecia, perché si appresta a vivere una nuova paralisi totale per lo sciopero generale di 48 ore proclamato dai sindacati in segno di protesta contro le nuove rigide misure concordate fra il governo ellenico e i rappresentanti dei creditori internazionali della Grecia. Allora andiamo in diretta con Vittorio Darold. Vittorio, buongiorno. Sì, ad Atene c'è naturalmente lo sciopero per due giorni, oggi e domani uno sciopero generale, e domenica ci sarà una grossa manifestazione davanti proprio a Piazza Sintagma, davanti al Parlamento, che dovrà riunirsi per decidere di approvare le nuove misure di austerità. ma intanto ci sono una ventina di deputati del partito del PASOK, del Partito Socialista di maggioranza e di Neodemocrazia, di conservatore, che minacciano di non votare le nuove misure di austerità e sfidano apertamente i rispettivi leader, una situazione molto confusa e socialmente instabile. Anche da Berlino arrivano segnali contraddittori. Angela Merkel dice che il fallimento della Grecia è naturalmente una misura, un rischio che non si può correre, ma il suo ministro delle finanze, Schäuble, dice che così com'è i provvedimenti non sono sufficienti ad abbattere il debito, e anche José Barroso deve mediare e si dice fiducioso che la prossima settimana l'Eurogruppo dovrà dare questi 130 miliardi per evitare il fallimento in una situazione di estrema incertezza. Grazie. Dunque, adesso invece vediamo come stanno andando i mercati. Ci colleghiamo con Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Pesa l'incertezza sulla Grecia, risale lo spread, tornano le vendite sui titoli bancari e sui mercati. Questa è la situazione di metà giornata. Sembra prevalere il pessimismo. Gli indici ne risentono, toccando i minimi di giornata. Abbiamo un ribasso di un punto su Parigi, dell'1,29% sulla borsa tedesca, Londra -0,41%, improvvisamente Milano, che aveva retto fino a poco fa, adesso cede l'1,24% e diventa la peggior piazza d'Europa. C'è anche da dire che è abbastanza probabile che molti operatori prendano spunto dalla questione greca per prendere profitto, perché le borse stavano andando bene da diverse sedute, quindi oggi si fermano probabilmente anche per chiudere la settimana in bellezza, incassando i guadagni recenti. Dicevamo che sono soprattutto i titoli bancari a risentire di più della situazione, perché c'è un calo di oltre 4 punti per un gruppo molto folto di titoli del settore: UbiBanca, Unicredit, Banco Popolare, Popolare di Milano e Intesa San Paolo, -3 per l'Emilia Romagna, per la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Lo spread, che ieri aveva ritoccato i minimi da settembre sotto i 350 punti base, adesso ritorna leggermente al di sopra di questa soglia, siamo a 3,50-3,55. L'euro sul dollaro è 1,3228, le preaperture per quello che riguarda il mercato americano è al momento negativa. È tutto. Grazie. Nella sua prima visita da Premier negli Stati Uniti, Mario Monti incassa la fiducia di Barack Obama e il riconoscimento del Congresso USA, che guarda con interesse alla svolta italiana, e la copertina di Time che gli dedica la prima pagina. Il racconto di Mario Platero. Straordinari passi in avanti dell'Italia nel processo di riforme, grande appoggio per il governo Monti. Barack Obama si è schierato ieri alla Casa Bianca durante un incontro nell'ufficio Vale con il nostro presidente del Consiglio, un incontro molto gradevole sul piano personale, ma soprattutto molto concreto sul piano della sostanza. I due di fatto hanno raggiunto un patto per la crescita. Si deve pensare, ha detto Monti e ha sottolineato Barack Obama, a entrare in una seconda fase dopo il progetto per risanare le finanze degli Stati europei, dell'Italia in particolare. Si deve pensare a un progetto per il rilancio dell'economia e dell'occupazione. Questo, come sappiamo, Barack Obama lo continua a ripetere ormai da molti mesi, e a questo punto Mario Monti diventa un po' l'interlocutore che porta questo messaggio in Europa. E dunque viaggio di successo quello di Monti in America, prospettive per un ritorno alla crescita. Oggi il nostro Presidente del Consiglio sarà a New York per un incontro con la comunità finanziaria, una missione altrettanto importante. Ma la nostra economia segna il passo, la produzione resta ferma nel 2011. Lo sguardo di insieme ci rimanda l'immagine di un'economia ferma. Il dato della produzione industriale anno su anno è rimasto invariato. L'anno prima, nel 2010, l'indice era salito, e non di poco, con un più 6,4% dopo 2 anni di cali. Insomma, dopo un 2010 in ripresa, arrivato a seguito del tonfo a doppia cifra del 2009, l'anno appena passato ha segnato un arresto. Colpa del peggioramento che si è verificato nella seconda parte dell'anno, in particolare dopo il mese di agosto. Tant'è che nell'ultimo trimestre l'indice è sceso di oltre 2 punti. Come sempre poi c'è a chi è andata meglio e a chi è andata peggio. Come spesso accade, la fabbricazione di macchinari e attrezzature ha segnato una crescita dell'8,6%. Bene anche la metallurgia e la fabbricazione di prodotti in metallo. Hanno da dimenticare invece per le industrie tessili, di abbigliamento, pelli e accessori, e per i prodotti chimici. I mesi però non sono tutti da buttare. A dicembre la produzione industriale è aumentata dell'1,4% rispetto al mese precedente. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prosegue in queste ore la trattativa del governo con le parti sociali in tema di lavoro. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta. Buongiorno. In attesa della nuova convocazione a Palazzo Chigi di sindacati e di imprenditori prevista per la prossima settimana, la trattativa sta andando avanti a livello di contatti tra le parti e tra tecnici. Questo per trovare una base comune di partenza che permetta di chiudere la trattativa entro marzo. Passi in avanti sono stati mossi intanto sul fronte del riordino dei contratti, sulle forme di ingresso ed apprendistato, sul reinserimento, sul limite da porre alle forme contrattuali che alimentano, a detta di tutti, la precarietà. Un tema che resta sempre sullo sfondo e che subisce quotidianamente accelerazioni e frenate, poi quello dell'articolo 18. Per gli industriali l'argomento è sul tavolo, si è parlato anche di quello, ha riferito la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, dopo i faccia a faccia con il ministro del welfare Fornero, un colloquio molto approfondito, ha spiegato il leader degli industriali sui vari temi che sono oggetto della riforma, tutti, nessuno escluso dalla CGIL, tuttavia la posizione non cambia, ogni ipotesi di revisione dell'articolo 18 è impraticabile, dice il segretario Susanna Camusso. La stessa CGIL apre tuttavia ad affrontare il tema della lunghezza delle cause di lavoro. E da Roma è tutto. Grazie. E ora la consueta rubrica Il Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Emetteva un regolare scontrino fiscale, ma la sua partita IVA era chiusa da più di un anno e l'ultima dichiarazione dei redditi risaliva al 2005. È solo uno dei 56 casi di fiorai irregolari scoperti dall'Agenzia delle Entrate in Emilia-Romagna con l'operazione Crisantemo, condotta il 1° di novembre su 231 fiorai durante i giorni dedicati alla commemorazione dei defunti. Il fioraio bolognese emetteva scontrini apparentemente regolari, utilizzando una partita IVA chiusa nel febbraio del 2010. In quell'occasione la buona notizia era stata che, con alcune vistose eccezioni come quella appena raccontata, il 75% degli esercizi controllati era poi risultato in regola. Chissà se in occasione del prossimo San Valentino si passerà dall'operazione Crisantemo all'operazione Rose Rosse per verificare se davvero, come dichiarano in media, i fiorai guadagnano poco più di 12.000 euro lordi l'anno, così come denunciano nelle loro dichiarazioni dei redditi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nell'affare dell'ex tesoriere della Margherita Lusi compare un altro immobile da 2 milioni di euro, sempre dell'immobiliare Paradiso. Ci colleghiamo allora con Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, il caso Lusi continua a scuotere di esse mentre spunta un'altra villa dell'ex tesoriere della Margherita. L'abitazione, sempre comprata con i soldi del partito, si trova ai Castelli Romani e vale 2 milioni di euro, da aggiungere quindi alla villa di Genzano e l'appartamento di Roma. Il senatore Luigi Lusi è accusato dalla Procura di Roma di appropriazione indebita e ha sottratto alle casse della Margherita almeno 13 milioni di euro. Lusi è stato espulso dal Partito Democratico, di cui faceva parte lunedì, una decisione che il senatore ha definito infamante. Ma il sospetto è che Lusi sia stato aiutato da alcuni componenti della Margherita, che allora faceva capo a Francesco Rutelli, oggi passato all'API, ovvero al Terzo Polo. Dal canto suo Rutelli contrattacca: i soldi della Margherita, un tesoretto di cui andava fiero, sono stati usati per fare politica anche dopo la nascita del Partito Democratico, e si chiede perché nessuno controlli i bilanci dei DS. Caustico il sindaco di Firenze Matteo Renzi del PD: una volta si rubava per il partito, oggi si ruba al partito. Per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Di nuovo in compagnia di GR24, vi abbiamo parlato, come avete sentito anche in via libera, di maltempo, neve alle porte della capitale, stato di allerta in tutta Italia. Abbiamo parlato nella prima parte anche di Grecia, dello sciopero generale di 48 ore, di Monti e di Obama e il patto per la crescita, e abbiamo fatto anche il focus sull'economia al palo e la produzione ferma. Ma in apertura di questa seconda parte torniamo a collegarci di nuovo con Andrea Viali per vedere come sta andando il piano antineve messo in campo dal Comune di Roma. Andrea? Sì, con uno sguardo al cielo e l'altro alle previsioni meteo, a Roma si continua ad aspettare questa neve che però finora, ad eccezione di qualche fiocco caduto stamattina nella zona nord, si è vista soltanto alle porte della città. Al momento non ci sono quindi problemi per il traffico, nulla a che vedere con quanto successo la scorsa settimana. In caso di emergenza sono comunque pronti ad entrare in azione 600 mezzi antineve in tutti i municipi, poi sono stati distribuiti sacchi di sale e Pale. Poi una curiosità, stamattina a spargere il sale sulla scalinata e sulla piazza del Campidoglio sono stati alcuni detenuti del carcere romano di Rebibbia che nel pomeriggio potrebbero dare una mano intervenendo anche in altre zone della città. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Lo ha anticipato la trasmissione Servizio Pubblico di Michele Santoro e oggi lo pubblica il Fatto Quotidiano. Si tratta di un documento che parla di un complotto ai danni del Papa. Il Fatto Quotidiano pubblica un documento riservato nel quale si ipotizza la morte di Papa Benedetto XVI entro il novembre del 2012 e si fa riferimento ad un complotto ai suoi danni. Nel documento sarebbe scritto che il cardinale Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo, durante un viaggio in Cina compiuto nel novembre scorso, avrebbe detto che il Papa sarebbe morto entro 12 mesi e gli sarebbe succeduto il cardinale Angelo Scola, ora arcivescovo di Milano. Sempre secondo il Fatto Quotidiano, il cardinale colombiano Castrillon, venuto a conoscenza della cosa, il 30 dicembre dello scorso anno avrebbe inviato un appunto riservato, scritto in lingua tedesca, a Papa Benedetto XVI. Si tratta di farneticazioni che non vanno prese in alcun modo sul serio. È stato questo l'unico commento del direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca ora con un'operazione della DIA in Campania. Arresti e perquisizioni degli agenti della DIA di Napoli nei confronti di esponenti del clan dei Casalesi e di politici che farebbero parte del gruppo capeggiato da Michele Zagaria. Tra le persone finite in manette anche il sindaco del comune casertano di Casapesenna, Fortunato Zagaria, omonimo ma non parente del boss della Camorra. È accusato in concorso con Michele Zagaria di violenza privata nei confronti del precedente sindaco del comune, Giovanni Zara. Secondo l'accusa, quest'ultimo durante il suo mandato era stato consigliato ripetutamente da Fortunato Zagaria, allora suo vice sindaco, anche a nome del boss, di non assumere iniziative pubbliche contro la Camorra perché erano sgradite a Michele Zagaria. Quel consiglio comunale fu sciolto per le dimissioni di 11 consiglieri 10 giorni dopo che Zara, considerato un sindaco anticamorra, aveva firmato un protocollo per l'avvio di un progetto in un bene confiscato al capozona Vincenzo Zagaria. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Siamo quasi in chiusura, ci occupiamo di cinema, ci spostiamo a Berlino dove è in corso il Festival del Cinema. C'è grandissima attesa oggi per Molto Forte e Incredibilmente Vicino di Stephen Daldry alla 62esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino fino al 19 febbraio nella capitale tedesca. Il film racconta l'11 settembre attraverso lo sguardo di un ragazzino che perde il padre nel crollo delle Torri Gemelle. Tratto dal libro di Jonathan Safran Foer, la pellicola vede schierati attori come Tom Hanks, Sandra Bullock e l'inossidabile Max von Sydow, sodale di molte opere di Bergman. Ieri accoglienza tiepida per Addio mia regina, film di Benoît Jacquot, che ha aperto la Berlinale. La pellicola inizia proprio il giorno della presa della Bastiglia, il 14 luglio 1789, e si snoda negli ultimi affannosi giorni che vedono il re Luigi XVI e la regina Maria Antonietta capitolare. Lo sguardo dei sovrani arriva allo spettatore solamente di riflesso, la vera protagonista del film è Sidonie Laborde, lettrice ufficiale della regina, e la servitù che si aggira nei sotterranei della corte tremando di paura per la sorte propria della monarchia, senza particolare affezione ma solo per timore dell'ignoto. Cristina Battocletti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Berlino. In chiusura, il Salone del Mobile di Milano. Una superficie di 209.000 metri quadrati e oltre 2.500 espositori. Sono questi i numeri dei Saloni 2012 in programma a Rofiera dal 17 al 22 aprile prossimi. Per la 51esima edizione le esposizioni saranno 5: il Salone Internazionale del Mobile, Eurocucina, il Salone Internazionale del Bagno e quello del Complemento d'Arredo e infine il Salone Satellite, dedicato da 15 anni ai giovani designer di talento. Carlo Guglielmi è il presidente di Cosmit, la società organizzatrice dei saloni. Ancora una volta un record assoluto di presenza di giovani che arrivano da tutto il mondo, sono 140 gli stand, circa 750 i designer. Riflettori puntati anche sulle due biennali dedicate ai settori di bagno e cucina. I dati sono di segno positivo soprattutto per le esportazioni delle cucine made in Italy che fra gennaio e agosto dello scorso anno sono cresciute dell'1,7%, cifre a partire dalle quali scommettono gli organizzatori della fiera. Credo che contro la crisi ci sia soltanto la necessità e la volontà di lavorare tanto, di dare spazio alla creatività. Obiettivo dei saloni 2012 è quello di consolidare i buoni risultati registrati all'estero, ma soprattutto quello di rilanciare la domanda interna. Il settore dell'arredamento, infatti, lo scorso anno rispetto a quello precedente ha subito un calo del fatturato del 4,9% per il mercato interno, a fronte di una crescita di 5 punti percentuali nel settore delle esportazioni. Irene Privitera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:24, questo era l'ultimo servizio. Un saluto da Cristina Carpinelli. Il prossimo giornale radio torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.